sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Verrà presentato oggi dal segretario al tesoro americano Geithner il piano per liberare le banche dai titoli tossici e un mix di investimenti pubblici e privati tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari. E volano le borse ottimiste in attesa del nuovo piano statunitense. Milano guadagna quasi il 3%. La presidente di Confindustria Marcegaglia risponde ad Almunia: non siamo nelle condizioni di Grecia ed Ungheria, ma poco fa il commissario ha rettificato, mai detto che l'Italia è a rischio. E ancora Silvio Berlusconi, il parlamentare più ricco, ma nel 2007 ha guadagnato 10 volte meno rispetto all'anno precedente. Il PDL verso il congresso, la Lega è un problema, ci dice Cicchitto. Ha ragione, replica il Carroccio, ci stiamo finché rispettano i patti. Legata imbavagliata durante una rapina nella sua abitazione, muore a Catanzaro una donna di 80 anni. If you were to come to me, I'd say sorry buddy, you still got the job. Quella che state sentendo è la voce di Barack Obama in un'intervista di questa notte alla CBS. Buongiorno da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo dunque così, con i nuovi piani americani per risollevare l'economia. Sì, nuovi piani americani che verranno presentati oggi dal segretario al tesoro Geithner, e alle vigilia appunto di questa presentazione, come dicevamo, in un'intervista alla CBS, Barack Obama ha detto che non si aspettava una situazione così nera per l'economia americana e soprattutto per l'occupazione. Ha aggiunto comunque di veder nascere dei barlumi di speranza nell'economia americana. I rifinanziamenti dei crediti sono molto aumentati, ha detto il presidente americano. I tassi di interesse non sono mai stati così bassi. Ciò permette di sperare che almeno il mercato immobiliare si raddrizzi e si stabilizzi. E vediamo che effetto avrà invece sul sistema bancario il piano che verrà presentato oggi dal segretario al tesoro Geithner. I dettagli. Il ministro del tesoro Tim Geithner annuncerà oggi il nuovo piano di salvataggio bancario. L'iniziativa prevede di rilevare fino a 1000 miliardi di asset tossici dai bilanci dell'alta finanza. Geithner al Wall Street Journal ha anticipato che l'obiettivo è quello di creare un mercato per questi asset attirando investitori privati. Uno degli strumenti cruciali infatti sarà la nascita di fondi di investimento in partnership tra pubblico e privato destinati a rilevare titoli nella bufera, anzitutto garantiti dai mutui. Il governo stanzierà nell'insieme fino a 100 miliardi di dollari per far decollare l'iniziativa. Altri due elementi contenuti nel piano prevedono l'espansione di un programma gestito dalla Fed, il TALF, oggi limitato all'acquisto di titoli recenti garantiti da prestito al consumo, e anche un ente sostenuto dalla FDIC, l'assicurazione sui depositi bancari, che consentirà a investitori di rilevare prestiti in sofferenza. Il successo del piano resta però in dubbio. Sarà un test cruciale per la credibilità di Geithner e dell'intera amministrazione dopo le polemiche sulla gestione del salvataggio dell'assicurazione AIG. Marco Balsani, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. E sentiamo ora come i mercati stanno reagendo all'annuncio appunto di questo piano americano. Deborah Rosciani. C'è un brindisi in borsa questa mattina in Europa. Gli indici del vecchio continente stanno guadagnando quasi 2 punti percentuali. Francoforte ha sfiorato poco fa questo rialzo, più 1,7 a Parigi, Londra più 1,68, mentre Milano le doppia tutte e sta guadagnando il 3,36% sull'S&P MIB, il 2,71% sul MIBTEL. D'altronde i titoli bancari di Piazza Affari erano forse quelli che erano scesi più di tutti in tutta Europa, e di conseguenza adesso c'è la corsa al recupero di tutte le posizioni perse negli ultimi mesi. Infatti a guadagnare di più a Piazza Affari sono Unicredit, più 8,70 Intesa San Paolo, più 7 dopo i conti, tra l'altro comunicati venerdì scorso, e l'intenzione di chiedere Tremonti Bond per 4 miliardi di euro. E poi dobbiamo anche segnalare, per quello che riguarda Piazza Affari, una piccola novità di oggi: 3 nuove società quotate al posto di 3 invece che sono uscite dall'S&P MIB, sono uscite Fastweb, Seat Pagine Gialle e L'Espresso, al loro posto Campari, CIR e Ansaldo, e anche questi titoli stanno andando bene questa mattina. Questo è il quadro di oggi. E grazie Debora per questi aggiornamenti. Poco fa è arrivato un comunicato della Commissione Europea che ha di fatto smentito nella maniera più netta che il commissario agli affari monetari Joaquim Almunia abbia affermato che l'Italia è tra i paesi a rischio con la crisi economica. Almunia non ha detto quello che leggo in particolare su Repubblica, e d'altra parte le parole che vedo nel titolo non appaiono nell'articolo, ha detto appunto la portavoce Amelia Torres. Ma su questo è intervenuta anche la presidente di Confindustria, Alessandro. Sì, è intervenuta questa mattina Emma Marcegaglia agli stati generali di Confindustria, Carate e Brianza, vicino Milano. Ha seguito i lavori Stefano Totoro. Stefano. Non è accettabile, così il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha commentato l'allarme lanciato dal commissario agli affari economici e monetari Joaquim Almunia sul rischio dell'aumento del debito pubblico, ovviamente una dichiarazione che precede la rettifica di Almunia. Abbiamo una situazione in linea con gli altri paesi europei, ha detto il presidente di Confindustria, ma sentiamo le sue parole. È ovvio e sappiamo che noi abbiamo un debito pubblico alto, ma credo che dall'altra parte abbiamo un tasso di risparmio delle famiglie che è il migliore d'Europa, abbiamo una situazione, come dire, in linea con gli altri paesi europei, quindi mi pare che non ci sia da preoccuparsi in questo senso. Ovviamente dobbiamo fare attenzione ai conti pubblici, dobbiamo cercare di evitare che ci sia un crollo della domanda, ma non mi pare che possiamo essere messi allo stesso livello della Grecia o di altri paesi che hanno problemi seri. Ecco, in linea in realtà con la rettifica di Almunia, rettifica in qualche modo anticipata dal commissario europeo ai trasporti Antonio Tajani, non nascondiamo la crisi, ha detto Tajani arrivando qui agli stati generali della Confindustria Lombarda, ma le parole di Almunia sono state enfatizzate dai giornali. Come uscire dalle crisi, di questo si sta parlando qui agli stati generali dell'economia lombarda organizzate da Confindustria. Il presidente Marcegaglia ha invitato le imprese a continuare ad investire e allo stesso tempo ha rivolto l'invito alle istituzioni e alle banche a risolvere l'emergenza del credito e della liquidità. Oggi pomeriggio a Milano, in un incontro con il ministro Tremonti, Confindustria chiederà di rendere immediatamente utilizzabile il fondo di garanzia di 1,5 miliardi di euro a partire proprio dal 2009. È tutto a voi. E grazie Stefano Totoro per questi aggiornamenti. Tra l'altro i nostri conti pubblici potrebbero ricevere un forte aiuto naturalmente dalle entrate fiscali. Insomma, lotta all'evasione che prosegue. Vincenzo Miglietta, questa mattina sono stati presentati dei dati, che cosa ne emerge? Sì, buongiorno ai nostri ascoltatori. La lotta contro l'evasione fiscale non si è arrestata, ma anzi va avanti raggiungendo obiettivi mai realizzati precedentemente, lo assicura l'Agenzia delle Entrate, forte dei numeri relativi al 2008. 6,9 miliardi di euro sono entrati lo scorso anno nelle casse dell'erario, con un incremento dell'8% rispetto al 2007. Per quest'anno il fisco punta a riscuotere 7,2 miliardi di euro. Se il contrasto all'evasione fiscale, ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befer, è importante nei momenti di crescita economica, diventa ancora più determinante nei momenti di crisi come quello attuale, quando la concorrenza sleale rischia di essere un fattore che taglia fuori dal mercato le imprese sane. Andando poi nello specifico dei dati, per il 2008 si evidenziano 645.000 accertamenti su imposte dirette, IVA ed IRAP, in crescita del 29% rispetto al 2007. Tra le tipologie di contribuente, le somme riscosse dalla delle entrate riguardano per il 33% le imprese di piccole dimensioni e il lavoro autonomo, per il 27% le persone fisiche e poi i grandi contribuenti, 15%. Il capitolo IVA, infine, stiamo agendo per stroncare, ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, le frodi relative alle false compensazioni. Ed è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi continuiamo a parlare in un certo senso di tasse, quantomeno di dichiarazioni dei redditi. Sì, quelle dei parlamentari che oggi sono state rese note sono le dichiarazioni del 2007 relative ai guadagni del 2006. Sentiamo. Neanche a dirlo, Silvio Berlusconi si conferma il leader politico più ricco del Parlamento, anche se rispetto al passato qualche novità non manca. Nel 2008, infatti, il Presidente del Consiglio ha pagato oltre 6 milioni di tasse su un reddito dichiarato di oltre 14 milioni e mezzo di euro. La notizia è però che l'imponibile del Cavaliere si è praticamente decimato rispetto all'anno precedente, quando i milioni dichiarati erano stati più di 139. Al Presidente del Consiglio sono intestati anche 5 appartamenti a Milano, un terreno ad Antigua, nei Caraibi. Due auto, una Mercedes del 92 e un Audi del 2006, oltre a 3 imbarcazioni e svariate partecipazioni azionarie. Fra i leader politici, Berlusconi è seguito a distanza dall'ex segretario del Partito Democratico, Veltroni, che dichiara oltre 477.000 euro di reddito imponibile, ma non risulta proprietario né di immobili, né di automobili, né di pacchetti azionari. Ha invece dichiarato redditi di poco superiori ai 220.000 euro l'attuale segretario del PD, Franceschini. Fra i 3 coordinatori del Popolo della Libertà invece a svettare è Verdini con 728.000 euro contro i 490.000 di La Russa e i 126.000 di Bondi. Si ferma invece a 105.000 euro il presidente della Camera Gianfranco Fini, preceduto in classifica anche dal leader dell'UDC Casini con oltre 142.000 euro e quello della Lega Umberto Bossi con 134.000 euro. Nel governo invece a guadagnare il secondo posto alle spalle di Berlusconi è il ministro dell'Economia Tremonti, che ha dichiarato redditi pari a 4,5 milioni di euro. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ve l'abbiamo già raccontato questa mattina nel consueto appuntamento del lunedì con la buona notizia. I libri per bambini e ragazzi fatti in Italia piacciono sempre di più e si sta per raggiungere il pareggio fra quanto importiamo e quanto esportiamo. Insomma, all'estero piace moltissimo la grafica Made in Italy. È il meglio dell'editoria per bambini e ragazzi è da oggi per 4 giorni alla Fiera di Bologna, una delle più importanti del settore a livello internazionale. Le diverse versioni della scarpetta di Cenerentola nei suoi viaggi per il mondo, nell'albo di Vinicio Ongini e Chiara Carrer, dove accanto alla famosa scarpetta di vetro troviamo gli arabi zoccoli d'oro, le babbucce dei Balcani. Ma anche la storia dei 3 porcellini, rivista e illustrata da Steven Guarnaccia, ambientata tra le case di grandi architetti del Novecento. Sono tante le novità alla 46esima Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si apre oggi e che ha come paese ospite la Corea. Tra gli ospiti d'eccezione un maestro della narrativa inglese amato dagli adolescenti, Aidan Chambers, ma anche David Almond con il suo pluripremiato capolavoro per l'infanzia Skellig, che presto diventerà un film con Tim Roth. Tra gli incontri più curiosi ricordiamo quello tra Nicolò Amaniti e il baby seduttore Alec Greven, autore di Come parlare alle ragazze, che a 9 anni è già una star. Gli orfani di Harry Potter potranno invece consolarsi con delle ottime autrici italiane come l'astrofisica Licia Troisi, di Cronache del mondo emerso, che in Italia ha venduto oltre 1 milione di copie. Italiana anche Silvana Gandolfi, scrittrice popolarissima tra i piccoli lettori con Pasta di Drago e Occhio al Gatto. Da non dimenticare infine l'omaggio a Gianni Rodari, il più grande autore per l'infanzia del secondo Novecento, di cui nel 2010 ricorre il 30° della scomparsa, attraverso le immagini che hanno accompagnato i suoi libri. Una selezione di disegnatori italiani che hanno illustrato i suoi racconti, tra cui Altan e Fulvio Testa, saranno i protagonisti della mostra intitolata Rodari Full Color, illustratori italiani 1990-2009. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:16, questo è il GR Extra Large. In primo piano, nella prima parte del GR Extra Large, abbiamo parlato del piano Geithner, del segretario del tesoro americano, per liberare le banche dai titoli tossici, un piano tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari. Abbiamo parlato della reazione delle borse, che è stata estremamente positiva. Abbiamo parlato dell'allarme lanciato ieri da Almunia, il commissario agli affari economici e monetari dell'Unione Europea sull'Italia. Il commissario ha rettificato, ha detto che l'Italia non è un paese a rischio. Abbiamo parlato dei redditi dei parlamentari. Ancora una volta, naturalmente, Silvio Berlusconi è il più ricco. E ora ci occupiamo di una mappa delle insicurezze degli italiani. Sì, andiamo a vedere quali sono le paure che assillano i nostri connazionali. Periodicamente vengono resi noti sondaggi su quelle appunto che sono le percezioni dei cittadini. Oggi vi vogliamo parlare di un'indagine realizzata da SVG per conto dell'ANCI, ossia l'Associazione dei Comuni. Ha preso in considerazione 11 aree metropolitane: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Bari, Firenze, Cagliari, Torino, Venezia e Bologna. Enzo Risso, direttore di SVG, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa emerge dal sondaggio? Qual è la paura più grande per gli italiani in questo momento? Beh, in questo momento diciamo che la paura della precarietà economica e lavorativa è diventata la prima paura e ha superato la paura per la microcriminalità, nel senso che il 32% degli italiani hanno paura proprio di perdere lavoro, di avere un'incertezza di futuro, mentre il 30% ha paura della microcriminalità. Ci sono differenze da città a città nella percezione appunto di queste paure? Diciamo ci sono differenze da città a città, soprattutto per quanto riguarda la microcriminalità, sulla percezione intanto della sicurezza. perché noi abbiamo una città come Venezia in cui l'80% dei cittadini si sente sicuro, e una città come Napoli dove il 91% dei cittadini si sente insicuro. Quindi, come vedete, la forbice di differenza è enorme. Oppure abbiamo, diciamo, le città più dove i cittadini si sentono più sicuri. Se vogliamo fare una classifica delle città sicure, sono in primo luogo Venezia, poi Cagliari e poi Firenze, mentre quelle dove il livello di sicurezza è, diciamo, medio, nel cui la gente comincia a avvertire una situazione difficile, sono Genova, Milano, Torino e Bologna, e poi le cosiddette invece capitali dell'insicurezza, che sono Napoli, Palermo, Bari, e poi c'è Roma, dove insomma sta crescendo il senso di insicurezza. Quindi non possiamo dire che i timori della crisi economica abbiano soppiantato il timore per la microcriminalità. No, possiamo dire che ovviamente i timori della crisi economica hanno spostato l'attenzione, però la microcriminalità rimane, perché ci sono dei motivi, insomma, da città a città anche differenti, voglio dire, che spingono un'attenzione. Faccio due esempi: a Milano l'elemento che preoccupa di più è l'immigrazione, a Venezia sono invece tipo i furti in appartamento, tanto per intenderci, o a Genova sono gli scippi. Ecco, ci sono fattori locali che continuano a mantenere alta la tensione sull'insicurezza. A Roma è il tema dei rom, dei nomadi, zingari, come si vogliono chiamare. Certo, poi ci sono state naturalmente anche tutte le notizie di cronaca delle ultime settimane e degli ultimi mesi, per esempio gli stupri a Roma, la Caffarella, Prima Valle, lo stupro di Capodanno, che sicuramente avranno fatto aumentare la paura dei cittadini romani nei confronti appunto di queste situazioni di insicurezza. Grazie a Enzo Risso, direttore di SVG, per essere stato con noi. E questo è sicuramente un bel tema da affrontare per il mondo politico. Noi proprio di politica ci occupiamo adesso, perché nel fine settimana c'è stato il congresso, come sapete, che ha decretato lo scioglimento di Alleanza Nazionale. Alleanza Nazionale che a fine mese, il prossimo fine settimana in sostanza, confluirà insieme a Forza Italia nel Popolo delle Libertà. E allora sentiamo la ricostruzione di quanto successo. Il terzo e ultimo congresso di Alleanza Nazionale si apre sulle note di Si può dare di più di Enrico Ruggeri. Un palco a forma di ponte simboleggia il passaggio di AN al Popolo della Libertà. Sarà quella d'ora in avanti la casa comune del centrodestra italiano. Occhi lucidi in platea quando scorrono le immagini in ricordo di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale. La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è, è nazione o non è. Poi la svolta di Fiuggi e la nascita del nuovo partito. Gennaio 1995. Nasce Alleanza Nazionale. Quel partito ha esaurito il suo compito, portare la destra al governo del paese. Gianfranco Fini, oggi terza carica dello Stato, parla per l'ultima volta al suo popolo. Con Berlusconi assicura non c'è alcun conflitto sulla leadership del nuovo partito unico. Il Popolo delle Libertà ha un leader che è Berlusconi ed è di tutta evidenza. Dopodiché Berlusconi sa perfettamente che una leadership forte e riconosciuta non può in alcun caso essere il culto della personalità. Consapevole della portata della svolta, la base di AN segue il suo leader con Buona pace della fiamma, che finisce nell'album dei ricordi. Noi abbiamo nostalgia solo di una cosa, dell'avvenire, bisogna guardare avanti. La fiamma non sparisce, è soltanto un fatto simbolico. È una cosa che lascia un poco sgomento, ma alla fine è un'evoluzione necessaria. È il proseguimento di un cammino intrapreso tanto tempo fa. Ma qualcuno dentro al partito non nasconde di avere ancora voglia di destra, il reggente di AN, Ignazio La Russa. Siamo ancora destra, siamo ancora Alleanza Nazionale e resteremo destra sempre all'interno del PDL. Il passaggio del discorso di La Russa non piace a Fini, che precisa. Non deve, non può essere il Popolo delle Libertà un partito di destra. Deve essere un partito in cui certi valori della destra sono in qualche modo il valore aggiunto, un contenitore ampio, certamente unitario. Unitario non può però significare a pensiero unico. Oggi nasce il Popolo delle Libertà, continua il nostro amore per l'Italia. Paola Cavalli, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E fra poco, più avanti, andremo a sentire come questa fusione viene vista da Forza Italia e dall'altro alleato di governo, la Lega. Ora invece parliamo della cosiddetta operazione Mettiamoci la faccia. Dopo averla annunciata in diverse occasioni, questa mattina il ministro dell'innovazione Renato Brunetta ha presentato ufficialmente l'iniziativa. Elisabetta Fiorito, cosa cambia negli sportelli della pubblica amministrazione? Da quando? Guarda, ancora non è detto da quando, però si sa quello che cambierà, cioè soddisfatti o contestati, questo potrebbe essere lo slogan dell'iniziativa del ministro Brunetto, mettiamoci la faccia, per aprire una consultazione tra i cittadini e pubblica amministrazione, cioè si tratta di verificare quello che nei comunicati stampa viene denominato la customer satisfaction, che tradotto in italiano vuol dire la soddisfazione dei cittadini attraverso una modalità di erogazione del servizio, in pratica attraverso lo sportello, attraverso internet, attraverso il telefono. Per i servizi erogati allo sportello la rilevazione può avvenire attraverso due macchine che si trovano proprio nel momento in cui viene erogato il servizio e hanno dei nomi un po' avveniristici, il totem installato nell'area di accesso per i servizi oppure il touchpad, uno schermo con cui si esprime il giudizio del servizio erogato. Insomma, il cittadino può toccare lo schermo e dire se è stato soddisfatto, se i tempi di attesa erano troppo lunghi, se deve ritornare, insomma può fare le sue proteste proprio in loco. Elisabetta, ma le famose faccette ci sono oppure no? Certo, ci sta la faccetta la classica faccetta di smile, e cioè lo smile che sorride giallo, quello lì un po' interdetto verde, e poi c'è quello lì arrabbiato che è lo smile rosso con la bocca rivolta in tua. Avrei pensato proprio... il sorriso verde, il... Sì, insomma ci sono proprio tutta una serie di cose che tu tocchi lo schermo e ricordiamo che questi sportelli sono ancora in via di sperimentazione, saranno l'Empulse, ci sarà l'Inps coinvolta, e è arrivato qui a Palazzo Chigi anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, con la grande soddisfazione di Brunetta, che dice però non è un metodo contro gli impiegati, attenzione, ma noi vogliamo sapere quanto ci si mette a dare un servizio di pubblica amministrazione per i cittadini. Grazie. Grazie Elisabetta, ci sentiamo entusiasta tra l'altro. Grazie Elisabetta Fiorito in collegamento da Roma. Adesso cambiamo decisamente argomento. Sì, è una vicenda che ha scosso profondamente la Gran Bretagna. Parliamo della morte di Jade Goody, la ragazza che era diventata nota al grande pubblico anche a livello internazionale per essere stata una concorrente dell'edizione inglese del Grande Fratello, ed era stata nota per i suoi comportamenti molto aggressivi durante questo reality. La notizia è che la ragazza poi si era ammalata di cancro all'utero, aveva un po' fatto diventare anche un evento mediatico tutta la sua malattia, e ieri appunto è morta. E allora sentiamo su questa vicenda Gianluca Nicoletti. Ho visto in una sequenza di 5 foto riassunta la parabola mediatica di Jade Goody, la prima stella del reality morta in odore di santificazione mediatica. La prima immagine di lei è del 2002, all'uscita del Grande Fratello 3, edizione britannica, bionda, ossigenata, scollatura da vertigine, con seno che sembra voler saltare fuori, lungo la passerella della gloria che ormai è diventato il luogo dell'immaginario globale. Nella seconda ha già cambiato il taglio di capelli, il baschetto nero si addice di più alla cattiveria politicamente scorrettissima che le dette la vera gloria. L'apoteosi fu quando discriminò, facendola piangere, la collega di prigionia indiana, diva di Bollywood. La terza foto è testimonianza della sua redenzione mediaticamente proclamata. Si era sposata in seconde nozze con il detenuto Jack Tweed. Lui esce di galera in permesso per permettere al TV e tabloid di fare il servizio del secolo, con la cattiva in abito bianco, ma già condannata da un tumore che le viene diagnosticato, naturalmente in diretta TV, proprio dalla sua stessa nemica di Mumbai, che così sembra vendicarsi degli insulti subiti. Nella quarta foto, il nuovo cambio di look è completamente calva per la chemio, viene riportata a casa in barella perché non ha più speranze, il marito le stringe la mano. Anche la fase terminale della malattia è stata per lei una grande occasione per conquistare le cronache. Per contratto dovrà regalare al mondo la sua morte teletrasmessa. Ultima foto. Lei esce questa volta da casa, è chiusa dentro un sacco di plastica perché ormai è solo un cadavere. È portata a peso da 2 uomini, dietro segue sua madre. Non poteva essere altrimenti. Per gli inglesi quello era il giorno della festa della mamma, e il copione di una vita spesa per il reality non può rinunciare a questa ultima ghiotta occasione di brivido emotivo per il suo pubblico. E ora parliamo di cinema. Police, please. My daughter's missing. I'm looking for his son. La storia di 2 genitori, l'uno inglese e l'altro africano, alla ricerca dei figli, probabilmente morti durante gli attentati di Londra del 2005. È London River che a Berlino ha vinto l'Orso d'Argento per la migliore interpretazione maschile. Il film aprirà questa sera a Milano la 19ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, organizzato dai volontari del Centro Orientamento Educativo. Un festival che resiste, nonostante il budget ridottissimo in un anno di crisi, come ha spiegato una delle direttrici appunto della manifestazione, Alessandra Speciale, intervistata da Marta Cagnola. Da un lato abbiamo avuto vari problemi finanziari per questo festival, ma non abbiamo mai avuto problemi di pubblico. Ed è forse l'unica vera certezza che non ci ha fatto desistere in momenti piuttosto difficili, come ad esempio quest'anno. Quali saranno i punti forti di questa edizione? I punti forti è la prima volta che facciamo una retrospettiva dedicata a un regista dell'Asia centrale, quindi siamo andati fino in Kazakistan. Presentiamo Darezam Omirbayev, che ha fatto solo 5 film, ma con questi 5 film è stato e ha vinto i premi nei più importanti festival internazionali. Altra novità, Al Jazeera. Sono ormai 2 anni che ci stiamo interessando alle televisioni arabe, che producono fiction, producono documentari, e quest'anno abbiamo fatto una selezione di alcuni programmi che trovavamo particolarmente interessanti, anche perché propongono una prospettiva sul mondo veramente diversa, e li abbiamo tradotti in italiano per presentarli al nostro pubblico. Il festival è solo un episodio nell'attività del COE. Noi ci occupiamo di cinema durante tutto l'anno, facciamo una distribuzione alternativa che funziona benissimo, però in tutte le sale di sé, rassegne, arene estive, e poi soprattutto lavoriamo tantissimo nelle scuole, portando i film all'interno delle scuole, portando dei mediatori culturali o qualcuno che possa parlare delle proprie culture. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Verrà presentato oggi dal segretario al tesoro americano Geithner il piano per liberare le banche dai titoli tossici. E volano le borse, ottimiste in attesa del nuovo piano statunitense. Milano guadagna quasi il 3%. Almunia smentisce, mai detto che l'Italia è un paese a rischio. Lotta all'evasione, boom di riscossioni nel 2008, un più 8%, quasi 7 miliardi recuperati dallo Stato. Il PDL verso il congresso, la Lega è un problema, ci dice Cicchitto. Ha ragione, replica il Carroccio, ci stiamo finché rispettano i patti. Legata e imbavagliata durante una rapina nella sua abitazione, muore a Catanzaro una donna di 80 anni. Arriva oggi sul mercato indiano l'auto low cost, la Tata Nano, costerà 1.500 euro. Entro il 2011 la Prodo in Europa a 5.000 euro. Allora, l'abbiamo sentito poco fa nelle parole di Gianfranco Fini, le parole di Gianfranco Fini durante il congresso di Alleanza Nazionale nel weekend, congresso che, lo ricordiamo, ha sancito la fine di Alleanza Nazionale destinata a confluire con Forza Italia nel Popolo delle Libertà. E si guarda dunque al prossimo fine settimana, quello appunto in cui ci sarà il congresso che darà il via alla nuova forza politica. E allora, che cosa potrebbe accadere? Qual è il futuro di questa nuova formazione politica? Paolo Piacenza ha intervistato il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto, e gli ha chiesto appunto innanzitutto se si riuscirà a trovare la quadra fra le diverse identità del nuovo partito. C'è la leadership di Berlusconi, c'è Fini che con la sua collocazione poi nella dimensione istituzionale farà politica in modo traslato, insomma, manderà dei messaggi, non è che interverrà nella contingenza politica, e poi ci vuole un partito che dietro Berlusconi ragiona, riflette, lavora sul territorio e così via. Insomma, la combinazione fra la leadership e una struttura politica e il rapporto con la gente. Insomma, ecco, questo processo quindi, come dire, non è ancora compiuto, deve ancora avvenire. Beh, certo che poi tra l'altro sono due partiti che hanno storie e caratteristiche molto diverse, perché l'Alleanza Nazionale era un partito che aveva un leader, il quale poi va aggiunto anche, non è che non esercitava nei momenti decisivi il suo potere, e era strutturato in 3 correnti. Forza Italia non ha nessuna corrente, un leader e una libertà di opinione molto maggiore di quella che non raccontino i giornalisti. Ultima questione, la Lega è un pericolo? No, la Lega è un problema, è un alleato, un concorrente e un problema, perché dobbiamo misurarci sempre con lei, insomma, ma questo è nella logica delle cose, insomma, è una cosa seria la Lega. Nello stesso tempo è una realtà politico-territoriale che ci pone dei problemi di concorrenza nell'alleanza. E veniamo proprio alla Lega, che si dice pronta a raccogliere i voti degli scontenti. Non facciamo sciacallaggio, ma per i delusi le nostre porte sono aperte, dice Matteo Salvini, deputato del Carroccio, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. In questo fine settimana sono stato a tanti gazebo a Milano, in provincia di Milano, gazebo della Lega, e si avvicinavano tanti elettori di Forza Italia e di Alleanza Nazionale con più di un dubbio sulle idee, sul progetto di questo nuovo soggetto politico. noi non facciamo sciacallaggio, però le idee della Lega sono chiare, semplici e coerenti da 20 anni a questa parte. Se qualcuno non sarà soddisfatto di quello che accade a Roma in casa di Forza Italia e dell'Alleanza Nazionale, le nostre porte sono aperte, ovviamente. Quindi è d'accordo quando si dice un conto è mettere insieme i dirigenti, un'altra cosa è quando si parla di militanti? Ma ci sono storie diverse, storie di Alleanza Nazionale e di Forza Italia diverse nel modo di affrontare la politica, di essere presenti sul territorio. Molti riconoscono coi suoi pregi e i suoi difetti alla Lega di essere probabilmente ormai l'ultima forza politica radicata nei quartieri, che parla ai mercati con la gente. Probabilmente uno dei rischi che si vede nel nuovo Partito delle Libertà è quello di essere un partito molto presente in televisione, magari un po' meno presente nelle piazze. Noi ci siamo e ci rimaniamo, se qualcuno vuole aggiungersi alla nostra truppa tanto meglio. La nostra è una società multietnica, ha detto Fini, con gli immigrati non serve mostrare i muscoli, non si può discriminarli anche se sono clandestini. Cosa ne pensa? Che la Lega su questo non ha cambiato idea, la clandestinità va combattuta, va repressa anche nell'interesse degli immigrati che sono in Italia regolarmente presenti per lavorare in pace e in tranquillità, quindi la lotta alla clandestinità per quanto ci riguarda rimane una priorità. Se Gianfranco Fini cambia idea a lungo percorso, libero di farlo, noi su questo tema l'idea non la cambiamo assolutamente. Cicchitto ai nostri microfoni ha detto: la Lega è un alleato, ma è anche un concorrente, è un problema perché dobbiamo sempre misurarci con lei. Cicchitto ha ragione, noi siamo alleati leali e fedeli fino a che i patti vengono rispettati, aspettiamo che il Nord abbia le risposte dal Popolo di Libertà che si aspetta. E questo era Matteo Salvini, deputato della Carroccia, intervistato da Maria Luisa Pizzali. Noi ora ci trasferiamo a Palermo, Simone. Sì, andiamo a Palermo, dove è attesa per oggi la sentenza del processo per il disastro aereo del 6 agosto 2005. In diretta Giampiero Casagni e Giampiero. Sì, buongiorno. C'è attesa per la sentenza del processo che si celebra con il rito abbreviato per la sciagura aerea dell'ATR-72 della Tuninter, che ammalò tragicamente il 6 agosto del 2005 al largo di Capogallo, a 12 miglia dalle coste palermitane. Nella sciagura, lo ricordiamo, del volo partito da Bari e diretto a Gerba, morirono 16 persone, 13 delle quali baresi, e i feriti furono 23. La Procura di Palermo ha chiesto al gruppo Vittorio Anania, che è in camera di consiglio da questa mattina alle 11, la condanna di 9 imputati, tutti tunisini, a complessivi 90 anni di carcere per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravissime. Tra gli imputati anche il pilota e il copilota dell'aereo, per i quali sono state chieste le pene più severe, 12 anni di reclusione. Nessuno degli imputati oggi era presente in aula, c'erano invece i familiari delle vittime arrivati a Palermo ieri sera con tre pullman dalla Puglia e chiedono giustizia. L'incidente, hanno accertato le perizie, fu causato dall'errata installazione sulla TR-72 di una spia di carburante realizzata per un altro velivolo, la TR-42. Installata sulla TR-72 segnava la presenza di carburante, che invece non c'era lì nello studio. Grazie Giampiero Casagni, naturalmente ci ricollegheremo nuovamente con te nel momento in cui sarà appunto resa nota questa sentenza. Restiamo al sud, ma andiamo in Calabria ancora con la cronaca. C'è stata una rapina finita in modo tragico. Una donna di 80 anni, Antonia Critelli, è morta in seguito ad una rapina compiuta nella sua abitazione in viale Pio X a Catanzaro. La donna è stata trovata stamattina dal figlio, distesa sul letto, imbavagliata, con le mani e le gambe legate. Sul letto trovate anche tracce di sangue. La polizia al momento sta cercando di capire come sia avvenuto il tentativo di rapina. I banditi sono entrati infatti nell'appartamento di Antonia Critelli dopo aver sfondato il vetro della finestra di un balcone. Sono saliti fino al sesto piano attraverso un'impalcatura. Una volta dentro hanno aggredito ed immobilizzato la donna e hanno messo a soqquadro l'appartamento. Non è stato possibile stabilire quando l'irruzione e la conseguente morte dell'ottantenne sia avvenuta. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Ora andiamo in India, dove da oggi è in commercio la Tata Nano, la vettura veramente low cost. Marco Masciaga da Nuova Delhi, allora quali sono i numeri di quest'auto? Ma i numeri della Nano sono, per adesso sono abbastanza curiosi, perché la macchina sarà disponibile da prima in 100.000 esemplari che potranno essere prenotati tra il 9 e il 25 di aprile, e su questi 100.000 esemplari la Tata garantisce che il prezzo non cambierà. I prezzi ufficialmente devono essere ancora annunciati oggi, succederà più tardi nel pomeriggio, però aspettano che la casa mantenga la promessa di fare il modello base a 100.000 rupie più IVA più i costi di trasporto dalla fabbrica fino al concessionario. Poi ci sono altri numeri interessanti, ci saranno per iniziare soltanto 3 modelli, una versione molto semplice, una versione con l'aria condizionata, una versione con l'aria condizionata e qualche accessorio in più, e poi si parla già di un modello possibilmente per il mercato europeo, si immagina intorno al 2011, però ci saranno necessarie delle modifiche sia dal punto di vista delle emissioni e sia dal punto di vista della sicurezza. E questa mattina, parlando con i giornalisti, era tant'altra, non ha neppure escluso un ingresso nel mercato americano, anche se in questo caso i lavori per rendere la macchina a norma saranno un po' più complessi. L'inizio dell'avventura della Nano è abbastanza, parte con una certa lentezza a causa dei problemi che hanno accompagnato l'individuazione della regione dove fare lo stabilimento. La Tata era partita prima in un posto, poi ha dovuto spostarsi, e per i primi mesi produrrà da uno stabilimento che normalmente produce furgoni, per cercare di mettere la macchina sul mercato nel più breve tempo possibile. Poi dall'inizio del prossimo anno, forse già alla fine di quest'anno, inizierà la produzione dallo stabilimento da cui usciranno buona parte delle future. Questo è il GR Extra Large. Nel nostro GR Extra Large di oggi abbiamo parlato del piano americano per liberare le banche dai titoli tossici, un piano che andrà tra i 500 e i 1000 miliardi di dollari, e delle borse che hanno ampiamente festeggiato questo piano. Abbiamo parlato della rettifica del commissario europeo agli affari economici e monetari Joachim Almunia, che ha detto di non aver mai detto che l'Italia è un paese a rischio. Vi abbiamo raccontato dei redditi dei parlamentari, naturalmente con ancora Silvio Berlusconi che è il più ricco, e vi abbiamo parlato invece di evasione fiscale, perché nel 2008 sono stati recuperati dall'Italia 7 miliardi di euro. E poi abbiamo anche tracciato una mappa delle insicurezze degli italiani, dove la crisi economica inizia piano piano a prendere il posto della microcriminalità. Ora c'è un'ultima ora che arriva dal Libano, perché c'è stato un attentato dinamitardo, è stato ucciso il vice rappresentante in Libano dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è rimasto appunto ucciso insieme a due sue guardie del corpo vicino alla città di Sidone. Secondo alcune fonti della sicurezza libanese, l'ordigno è esploso contro il corteo appunto dell'importante esponente palestinese in una strada di un campo profughi vicino Sidone. Andiamo adesso invece in un luogo dove si temevano violenze, e violenze invece non ci sono state. Parliamo della Macedonia, dove si è votato per il nuovo presidente, dove però si dovrà attendere per conoscerne il nome il 5 aprile. Eh sì, perché al ballottaggio andranno il candidato del partito governativo e quello dei socialdemocratici, oggi all'opposizione. La Macedonia ha superato la prova delle elezioni presidenziali che si sono svolte ieri sotto la stretta osservazione dell'Unione Europea. Contrariamente a quanto accadde 2 anni fa in occasione delle politiche che furono contrassegnate da violenze in campagna elettorale e denunce di brogli, questa volta nella Repubblica ex Jugoslava tutto è tirato liscio. In netto vantaggio al primo turno, il candidato del partito di centrodestra attualmente al governo, Gheorghe Ivanov, con il 34%. Al ballottaggio del 5 aprile andrà il socialdemocratico Ljubimir Frankovski, che ha ottenuto il 19,5% dei consensi. Se in queste 2 settimane si confermerà l'andamento tranquillo e democratico della campagna elettorale, la Macedonia, che nel 2001 visse 3 mesi di scontri etnici tra la maggioranza di etnia slava e la minoranza albanese, avrà compiuto un importante passo in avanti in direzione dell'Unione Europea e della NATO. Elena Ragusin, GR24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sui rapporti fra Stati Uniti e Iran. Oggi sono molti giornali arabi in edicola a parlarne. Ci racconta tutto Adib Fateh Ali. In assenza dei commenti della stampa iraniana dovuta alla festività del capodanno persiano Nauruz, quella araba è unanime nel giudicare positiva la storica apertura fatta dal presidente americano Barack Obama. Ma mentre la stampa moderata mette l'accento sull'insufficiente risposta dagli ayatollah di Teheran, quelli filo iraniani ritengono invece che Khamenei, nel suo discorso di domenica, ha indicato agli USA una roadmap iraniana per superare tutte le divergenze. Su tutti due commenti, Al-Ahram che scrive: Teheran dice che le parole non bastano per fare il cambiamento e che almeno lei cominci ad usare quelle giuste come ha fatto Obama. La guida spirituale dell'Iran in sostanza ha detto che l'inimicizia non è eterna, è invece la risposta del giornale libanese filo iraniano Al-Safir. Adif Fatahali, GR24, Sole 24 Ore. È lunedì, il nostro appuntamento con la pausa pranzo dal nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Firenze, in via del Verrocchio, in un locale storico, importante, uno dei templi della cucina fiorentina, Dal Cibreo. Ebbene, qui si possono mangiare veramente le grandi specialità della cucina di questa città, sicuramente rivisitate. Si può mangiare la pappa al pomodoro, la ribollita, si può mangiare la trippa, si possono mangiare il collo di gallina ripieno. Si possono mangiare dei dolci al cioccolato davvero straordinari. Ebbene, la carta dei vini è economica, racchiude non solo vini toscani ma vini di tutta Italia e anche sicuramente qualche chicca francese o americana. Lo ripeto, il Cibreo, via del Verrocchio a Firenze. Ed è tutto per questo GR Extra Large, curato e condotto da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Anna Rita D'Ambrosio, in regia Fabio Cantadori. Il prossimo GR alle 15, mentre noi torniamo domani come sempre alle 13. Vi ricordo, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se invece volete riascoltare questa puntata o ascoltare altri contributi audio, il nostro sito internet è www.radio24.it. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.